La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Oggi in questa giornata qui così grigia e altrove chissà come, sarebbe stato il compleanno di Donato Sannini, che morì a 33 anni portandosi via la sua teoria sulla telepatia. Lui era un giovanottone enorme con una grande barba. Era un genio fiorentino che si era votato ai maschi e una volta mi disse: «Io non sono frocio, sono una vittima del fascismo femminista. Sì, voco ai maschi, ma non sono mica Pinocchio». E che me ne hanno fatte troppe le donne. E ora non solo con loro non mi va, ma ho paura. Dopo che la faccenda è che mi misero la camicia di forza perché uscendo dal ristorante avevo toccato la schiena a una mia amica. Io adesso vo solo con gli uomini. La sera vado al Colle Oppio, ci trovo dei signori di 60 anni con l'ombrello che ti fan far tutto e ti ringraziano pure. A me nei maschi m'attira la gentilezza. Ma chi era Donato Sannini? Donato Sannini era Dio, poi vedremo come. Era questo gigante barbuto con un viso da bambino. Era un puro folle. Era un santo moderno di 120 kg. Morì a 33 anni, come aveva sempre detto che sarebbe stato. Lui era un tenero umorista, era un filosofo surrealista, grande amico di Benigni, che alla sua memoria dedicò Piccolo Diavolo. Infatti credo che si sia ispirato a lui, perché come il diavolo del film, la sua ignoranza degli usi umani era completa. Però sapeva cose che noi non sapremo mai. Viveva al Colle Oppio in un grande appartamento vuoto. L'unico mobile era lui, troneggiante. Stava sempre nudo. Riceveva così, con i suoi modi saggi e aristocratici, e c'era tutto per tutti. C'era la birra, il whisky, anche dei mucchi di cocaina, che scintillava e lui sprezzantemente l'abbandonava agli ospiti che venivano solo per quello, perché ce n'erano. E poi lui, appunto, ignorava tutti gli usi e anche l'amicizia, per lui era un mistero. Per tutti gli altri, però, l'offerta era Donato. За що ж ви Ваньку там морозива? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Ora, si dice che quando Walter Benjamin incontrò per la prima volta Charlie Chaplin, si mise a danzare. E io ho avuto la stessa reazione. La prima volta che ho visto Sannini, mi sono messa a parlargli intorno. In un empito di gioia primitiva, perché era una creatura che vederla ed essere contenti di essere nato era tutt'una. Non mi era mai successo con nessuno, né mai più mi è successo in seguito. In un aprile tempestoso, mi ricordo, mi portò in gita a Viterbo con la sua macchina. Guidava senza badare la strada. Stava attento soltanto alle greggi di pecore e disse: «Stanotte ho fatto un atto impuro pensando a una pecora, ma una bella pecora, no come queste qui, che non valgono nulla». E poi andando, la strada era lunga, mi raccontò la sua filosofia e la sua storia. E mi disse che lui era stato a lungo in cura da uno psicanalista. Poi lo psicanalista l'aveva maledetto, una cosa che non mi sono mai fatta spiegare bene perché non si rifiutava. E è stato maledetto da questo psicanalista e si era dato al teatro. E i più vecchi ricorderanno le sue performance al Beat 72, dove riceveva gli ospiti stando a letto. E poi si era dato alla droga, con la quale aveva dissipato la fortuna di una famiglia di belle tradizioni, e anche i ricordi delle sue ave, erano state vendute anche le lettere delle trisavole in corrispondenza con Keats e Shelley. A un certo punto ci fermiamo a bere un caffè, lui mi dà un bacio e mi chiede se voleva essere la sua ragazza, anche perché questo fatto di darsi agli uomini così era, lui era una creatura dell'etere, donne, uomini, animali, penso che fosse veramente la stessa cosa. E mi dice: vuoi essere la mia ragazza? Io veramente non desideravo altro e trovavo straordinario che non mi distinguesse da una pecora o dai vecchi con l'ombrello. Però gli dissi, senti, Donato, ma io gli dico di sì, però non lo dire in giro. E lì mi fece la grande rivelazione. Mi rivelò che tutti eravamo telepati e tutti sapevamo i fatti degli altri. E mi dice, oh Nini, ma tu davvero ti credi che gli altri già non sappiano per filo e per segno quello che abbiamo detto e fatto? E per compassione della mia ignoranza mi rivela appunto che in verità siamo tutti telepati. Tutti. Tutti sappiamo cosa stanno facendo gli altri, cosa pensano di noi, cosa dicono alle nostre spalle. Però non lo diciamo, se no l'assetto sociale ne verrebbe scompaginato. E lui diceva, solo l'ipocrisia ci può salvare dalla catastrofe, di ammettere cosa proviamo veramente per gli altri. Tutti vedono tutto, ma per malignità poi fanno finta di non saperlo, per malignità e per uso di mondo e per mantenere appunto l'assetto sociale. Le prove che lui portava, secondo lui, erano irrefragabili. C'è mai fatto caso che appena vai al cesso squilla il telefono? È uno che lo sa, che ha visto, e dice, andiamo a rompere coglioni a Sannini. Un цирк ходил на старой площади, и там циркачку полюбил. Ему чего-нибудь попроще бы, а он циркачку полюбил. Allora, tutti erano telepati, secondo la teoria di Sannini, meno uno. E chi? Lui, Donato. E non era telepate perché a 13 anni lo avevano tardivamente circonciso. E con questo gli avevano tolto questa facoltà comune a tutti. Perciò, essendo l'unico non telepate, l'unico diverso, Sannini era Dio. La cosa mi diceva che abitualmente non è che gli desse troppo fastidio. Però la coscienza della sua divinità lo tormentava e si faceva ossessiva verso Ferragosto. Verso Ferragosto è il momento peggiore. Perché in quel momento, non si sa perché proprio a Ferragosto, ma era così, la responsabilità e la desolazione del mondo lo schiacciavano. Arriviamo a Viterbo e lì ci aspettava Dario Bellezza, che aveva comprato i panini e per disprezzo li aveva incartati nella sua traduzione di Rimbaud, tutta unta. E li andiamo a mangiare sotto una pianta. Ed un tratto Sannini, che tipo era molto mite, però un tratto aveva queste antipatie improvvise, mi guarda con durezza e dice «È inutile che ti illudi!» Tanto te in cielo non ci andrai mai. Allora c'è una discussione drammatica. Io mi offendo a morte. Cerco di dimostrargli il contrario. Lui inflessibile. Io mi rivolgo a Dario. Dario, diglielo tu. E Dario dice no, ha ragione Sannini. Al ritorno Donato cambia rotta, voleva vedere il mare. Mentre filavamo verso Santa Marinella, continuando questa lite sul paradiso, ci piovevano tutti gli insetti sul parabrezza. E Donato aziona il tergicristallo. Dario, che era in una fase quasi jainista, cioè il rispetto della vita sotto qualsiasi forma, comincia a dire «No, povere creature, abbi un po' di pietà!» E Sannini «E perché, scusa? Alcuni li graziamo, altri li facciamo tribolare!» Arriviamo al mare, lui comincia a camminare sulle acque, che però cedevano sotto i suoi passi. La guardiana del faro. Arriva un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho solo 43 anni, ma se non mi tingessi avrei i capelli quasi tutti bianchi. Avrei anche voglia di piantarla con questa schiavitù della tintura, ma al naturale dimostrerei 10 anni di più e mi dispiacerebbe perché gli uomini mi guardano e come. Ho visto che tu porti senza imbarazzo i capelli bianchi. Vedendoti mio marito ha detto, lo vedi? Non bisogna avere complessi. A me piaceresti molto senza tinta. Ho sposato una bruna e vado a letto con una bionda. Anna Grazia. Beh, io non so però se tuo marito piacerebbe invece andare a letto con una grigia. Perché lui sicuramente spera, c'è dell'affetto, ma spera anche di levarti di dosso qualche sguardo di maschio. Però a questo punto, forse, come sempre succede, ti guarderebbe molto meno anche lui. Sai, Anna Grazia, bisogna essere molto sicuri del proprio fascino, arrogantemente sicuri del proprio fascino, per andarsene in giro con i capelli argentati a 43 anni, perché è certo che ti invecchia, sicuramente. Ora, tu sei giovane e fai bene a tingerti, io ho smesso perché era ora. Ora, aspetta di avere la mia età per rinunciare alla tintura. Io ti dico come e perché ho smesso. Io non ho mai avuto il panico dei capelli bianchi, perché mi ero sempre tinta. Quindi, figurati. Ero biondissima. E poi sai, quando cominci a invecchiare dispiace di più che ti casca il collo, quello sì che dispiace. A un certo punto ho smesso, perché da giovane dicevo sempre, ah, voglio diventare una bella vecchia. E invece stavo diventando una vecchia ritinta. A un certo punto ero curiosa del mio vero colore. Allora dico al parrucchiere, senta, ma se li lascio crescere selvaggi, come vengono? E lui,

piccoli. È il più bello di tutti, è il più bello del mondo. È un rugbista, un fisicone meraviglioso. E io non mi sono mai tentata ad avvicinarmi da ragazzina. E forse anche lui, perché mi ha detto dopo, sì, eri molto carina, però io non mi sono messo in fila. Insomma, è la storia fra due timidi in fondo, che non sembrano, invece lo sono. Dopo tanti anni ci siamo rivisti, tutti e due sposati, separati, con due figli io, due figlie io, due figlie lui. E lui però è fidanzato con questa americana, che è una donna d'acciaio, perché lei fa l'Ironman, questa disciplina pazzesca che sono in un giorno solo, tutto di seguito, 3.800 metri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta, poi scende dalla bicicletta e si fa una maratona intera, che sono 42 chilometri e 195 metri. E quindi loro si sono conosciuti nel deserto, mentre lei appunto faceva 100 chilometri nel deserto, e lì si sono fidanzati. Poi lei quest'estate è partita per l'America, doveva stare via 2 mesi, poi in 2 mesi sono diventati 3, 4, 5, 6, 7, è stata via 7 mesi. Nel frattempo lui ci siamo visti sempre, ci siamo divertiti moltissimo, abbiamo fatto di tutto, come dice lui, ci siamo molto viziati, siamo andati a vedere le mostre, siamo andati a teatro, viaggi, concerti, vacanze, feste, a ballare, insomma tutto, tutto senza sesso, perché lei doveva tornare di lì a poco, noi l'aspettavamo, insomma non lui l'aspettava, io non mica tanto. Poi gli ho raccontato tutto nel frattempo, in questi mesi gli ho raccontato tutte le mie storie d'amore, e lui l'ha ascoltata, mi ha consolato e mi diceva delle cose carine, per esempio: ricordati Maria, che loro sono degli alfieri e l'alfiere si muove solo in diagonale, mentre la regina si muove dove cazzo le pare, e la regina sei tu. Poi tutti quelli che ci vedono insieme ci dicono che siamo bellissimi uno vicino all'altro, ma soprattutto è bello lui, molto molto bello. Il giorno di Natale, per esempio, ero a casa sua, come la vera moglie, ecco, ero a casa sua e c'era la madre. E io stavo raccontando alla madre della mia storia con il siciliano, e perché sì, lo vedo, e a un certo punto la madre si è girata verso Luca e gli ha detto: ma scusa Luca, tu permetti alla Maria di parlare così di un altro? Quindi anche come se fossi la sua fidanzata ufficiale. E io ho detto: scusi signora, ma Luca adesso, dopodomani arriva la sua fidanzata dall'America, io cosa devo fare? E la bambina, che è un amore, che era lì, che ascoltava, ha detto: ma non c'è problema, appena arriva l'americana si fidanza col siciliano e tu col papà. E quindi tutti d'accordo. Fidanzata con tutta la famiglia, esteso un'intera famiglia. Con tutta la famiglia, ecco. Dopo io sono partita, me ne sono tornata a Milano, lui mi ha accompagnato alla stazione, lui è gentilissimo, è una persona, un uomo generosissimo, molto carino. Dopodiché, niente, lui, sono tornata a Milano. Da quando è arrivata la fidanzata, io l'ho sentito meno, chiaramente, e mi è venuta una voglia di vederlo, ma una voglia diversa da prima, una malinconia anche, e poi non è giusto, secondo me. E allora l'ho chiamato un giorno, e l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, io sto malissimo, ho malinconia, e poi mi sembra ingiusta questa cosa che tu adesso stai con l'americana e io sono qua. Perché, e lui mi ha detto: guarda Maria, ti volevo dire che anche per me è la stessa cosa, per me è così. E allora io gli ho detto: Luca, a me è venuta voglia di baciarti. Poi lui mi chiama Peggy, come Peggy Guggenheim, e che è sempre stata una mia beniamina, mi è sempre piaciuta moltissimo. E ora mi ha mandato questo messaggio molto bellino, e dice: ciao Peggy, ieri notte ti ho sognata, vorrei che tu sapessi che in questo momento mi piaci molto, sei sicura di te, gentile ma decisa, spavalda, gestisci tutti i tuoi uomini come meglio vuoi, salti da una città all'altra a volo d'uccello e cambi al momento giusto, hai trovato un equilibrio bello con le bimbe e con la vita, brava. Qui al faro ho appeso al muro con le puntine da disegno l'immagine di un cane che fu un mio cane, e c'è scritto: cosa ne sai dell'amore? finché non hai guardato negli occhi il cane che ami. Ecco, è proprio così. Perché i cani hanno l'eternità dell'entusiasmo. Mentre noi ci stufiamo anche di Dio, loro hanno sempre questa felicità di essere e non si stancano di te, ti amano sempre di più, loro hanno veramente il segreto dell'amore. Infatti quando vedo queste signore della mia età, queste vecchie coi cani, ho molta tenerezza perché capisco che magari i figli non se le filano più, i maschi men che meno, le amiche le hanno tradite e loro si sono fatte il cane. Perché il cane è l'unico, per esempio, che non bada alla ricrescita, cioè finalmente si fidano di qualcuno, non rimpiangono gli amanti o le amanti. Perché l'uomo tradisce per sorridersi allo specchio e la donna pure. E il cane invece, il cane, quel che si voglia dire, è il simbolo della fedeltà. Eppure anche i cani sanno deludere. Но принцип такой, дуракам не с руки, с любых расстояний их видно. Кричат дуракам дураки, дураки, а это им очень обидно. Io avevo un cane che si chiamava Bionda. La Bionda era una trovatella. Io ci dormivo insieme da 5 anni. Io sul letto, lei sulla poltrona. Quando mi addormentavo e quando mi svegliavo era l'ultima e la prima cosa che vedevo. Un giorno venne a casa a lavorare una ragazza di nome Margherita. Appena arriva si butta sul cane, gli fa un sacco di carezze, di grattini. Io non ero gelosa, appena appena, no? Giusto quel po', no? Perché altri aveva tentato di sedurre la Bionda. Ma per lei esistevo io sola, ero sicura. Anche in famiglia ero la preferita. La sera vado a letto, aspetta. La Bionda non veniva mai in camera, di solito l'avevo già in poltrona, invece che la sera, niente. Allora mi alzo, la cerco per la casa e mi rendo conto che è andata a dormire con la Margherita. Furibonda. Furibonda perché mi immagino la scena e penso è stata quella, è stata lei che l'ha attirata, che l'ha portata dentro con la forza, che l'ha chiusa in camera, perché mai la Bionda avrebbe rinunciato alla sua poltrona. Ma domani mi sente. Notte praticamente insonne, covando una rabbia da gelosa senza nome. La mattina era estate. All'alba busso a malapena, io che sono una persona abbastanza accostumata, busso a malapena, poi apro la porta e dico: Margherita, sia chiaro, Bionda è mia moglie, non la sua. Io ho una sola certezza nella vita, che il cane dorme con me. La prego, sia l'ultima volta che la chiude a chiave nella sua stanza. E lei cade dalle nuvole e mi dice: ma guardi che è stata la Bionda che ha grattato alla porta. Io questa poi, ma figuriamoci, penso, no, che faccia tosta, perché quando è stata lei che insidiava la Bionda, l'ho vista con i miei occhi appena arrivata. Ci ha fatto la smorfiosa dal primo istante. Per cui io però pensavo di aver sistemato la cosa. Verso mezzanotte io a letto, cane, niente. Allora mi alzo, di nuovo, a passi di lupo percorro il corridoio, e becco la Bionda davanti alla porta chiusa della mia rivale che piange, mugola, gratta e fa un gran casino per farsi aprire. Allora era vero. Lei. È stata lei che ci voleva dormire. La stava supplicando. Dopo 5 anni, per una appena conosciuta. Io non mi fido più, manco dei cani. И чтобы не краснеть за себя, дураку, чтоб каждый был выделен, каждый, на каждого умного по ярлыку повешено было однажды. Давно в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошик, на медный, и умным кричат: дураки, дураки, а вон дураки незаметны. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Che mi succede, Barbara? Ho sempre amato le donne colte e raffinate, le donne di spirito, con le gambe lunghe e un viso interessante. Lavoro in biblioteca, da qualche tempo viene qui a studiare una ragazza che a prima vista ho trovato orrenda. Non bella, volgare, truccatissima, tette perfette e immobili, evidentemente finte. Unghie finte, voce sgradevole. Mi sono preso una cotta. Cerco di non farglielo capire, ma lei ha capito. E questo mi sgomenta. A 32 anni per la prima volta sono in un violento contrasto con il mio desiderio. Pensavo di andare da uno psicanalista. Nicola. Senti Nicola, ma ti rendi conto che fai ridere? Ma come ti viene in mente di farti guarire da uno specialista dal desiderio? Guarda che è un pretesto comico. Di questo passo vai pure dall'esorcista. Mettiti davanti a te stesso che è meglio. Guarda che il desiderio non ha pregiudizi, il desiderio ci sorprende. E ti leggo un raccontino cinese tratto da un libro che si intitola La manica tagliata, pubblicato da Sellerio a cura del sinologo Giovanni Vitiello. Ed è una favola sulla imperscrutabilità del desiderio. Il desiderio non ha pregiudizi, il desiderio ci sorprende. Alle dipendenze della famiglia Ma di Heian c'era un contadino di 60 anni. Una volta camminava tutto solo quando scoppiò una tempesta. Lampi e tuoni e un cielo scurissimo. Fu allora che un drago protese i suoi artigli sul suo cappello di bambù. Il contadino pensò che stava ricevendo la punizione del cielo. Tremando, ricadde prono. Sentiva il drago che gli lacerava i calzoni e pensava: «Mi spoglierà e poi eseguirà la condanna». Mai a pensare che quello gli si sarebbe messo dietro e, spingendolo a terra, lo avrebbe violato. Riuscì a girarsi di lato e a sottrarsi un po', ma subito il drago ringhiò di rabbia, toccandogli la testa coi denti. Il contadino, temendo di essere divorato, si accucciò allora senza osare il minimo movimento. Poi, passato un po' di tempo, emettendo versi simili a tuoni, il drago si ritirò. Il contadino si lamentava sopra il sentiero. Fortuna che suo figlio, con un impermeabile di foglie, venne a prenderlo. Se lo caricò sulle spalle e lo condusse a casa. Da principio il vecchio tenne il fatto segreto, ma poi, siccome era gravemente ferito, infine rivelò tutta la storia. Al tempo della sarchiatura, è pieno di donne che vanno nei campi a portare da mangiare gli uomini. Ma il drago prese un uomo. E anche i giovani pastori erano tanti. Eppure quello prese un vecchio. Davvero inesplicabile. La guardiana del faro. Aiuto! Per favore! Anio, c'è nessuno! Scusi. Chi è? Che sono un naufrago. Ho fatto una stronzata, scusi, ho fatto una cosa sconveniente. Ho affittato una barca e mandato una barca di quelle dei napoletani, non so se lei sa. Scusi, ma lei è il guardiano? Paolo, sono Barbara! Barbara! Oh, scusi! Oh, no. Ma sei tutto bagnato, ma che hai fatto, sì, ce l'hai una accappatoio? Tutto, tieni una coperta, tutto. Vabbè, ma copriti. Posso, c'è qualcosa? Sembri da bere. Un grosso pesce bagnato. Sì, ecco. Sì, grazie. Ma che è successo? È successo, niente, tu lo sai che ho avuto una grande passione per il mare. Adesso però purtroppo ho un inizio di una malattia che devo rivelare, cioè mi sono fatto un'autodiagnosi, ho perso la memoria. Allora Alzheimer. Perché io sono circondato da coetanei che non si ricordano più un cazzo, niente, zero. E io purtroppo ho un vantaggio di avere un fratello gemello, lo sai, no? Quello sì, lì sì. Della normale di Pisa, e che è sempre in contatto con me. Dico, oh, scusa, non mi ricordo il nome di Dante, anche, pensa, il cognome. Pronto? Sì, che c'è? Dante, Alighieri, fa lui. E io butto giù. E lui, l'altro giorno, Proust, che io peraltro non ho letto, non so che... Credo che non l'abbia letto nessuno, questo poveraccio. Eh sì, perché gli intellettuali gli hanno fatto una tale scorza di noia intorno che la gente non manco lo apre. Ma però è noioso. No. Vabbè, insomma, io Proust, ho tentato, sai che io non ho neppure finito, ho letto l'inizio e la fine di Cent'anni di solitudine, che è stato un bel momento, io ho barato, ho dovuto dire sì, l'ho letto. Io non sono riuscito a leggere. Ho letto l'inizio, che era sorprendente, perché si attaccava subito al finale, quando suo padre lo portava a vedere il ghiaccio. Ma per il resto io riesco solo a rileggere, solo. I Karamazov? No, come in ordine gerarchico. Kafka penso che sia irraggiungibile, perché Kafka all'inizio... Posso parlare di questo anche in un faro? Di tutto, sì, di tutto, hai molto fiato, vedo. Metamorfosi. prima riga. Una mattina, quella mattina, Gregorio Samsa si svegliò nel suo letto che era un enorme scarafaggio, appunto. Quindi tu capisci che nella prima riga entri in un incubo paradossale, assurdo, e nessuno riesce a comunicare veramente l'ansia, proprio l'incubo, è un incubo continuo, soprattutto nel castello. A me piace anche Colonia Penale, quando lui va in quell'isola. Un bel manuale di sadismo. Sì, dove c'è, sì. Dove c'è quello scemo che volumento muore. Tu hai detto giusto Karamazov, no? Io comincerei con Memoria dello sottosuolo, perché è impressionante. Io penso che molti dei grandi psicanalisti abbiano ricalcato un pochettino le indicazioni che ha dato lui. Lui, dico, è Fiodor, perché nella Memoria dello sottosuolo io mi sono subito identificato. È una specie di improvviso ritorno agli incubi peggiori, quando avevi paura del futuro, paura di essere mediocre. Io ce l'ho tuttora, però. E io ti dico la verità, Memoria dello sottosuolo è forse la cosa che io li tengo questi qui. Tengo il processo meno, ma il castello, Metamorfosi e Colonia Penale e Memoria del sottosuolo li tengo lì a disposizione, per non parlare poi di rileggere ogni tanto l'interrogatorio. Il Raskolnikov che va il giorno prima in casa di Elisabetta per fare un sopralluogo e dice, ecco, e vede il letto con una coperta gialla. E questa è un'intuizione incredibile, e riesce a rivive in anticipo la grande emozione del giorno dopo quando andrà ad ammazza, e poi niente, scompare completamente, la polizia non riesce, e dice ignoto assassino, cioè. A questo punto lui comincia ad avere voglia di segnalare a chi. Deve firmare l'autore. Sì, firmare l'autore, quella certo. È una cosa. E allora comincia a girare intorno al giudice, e non si capisce se il giudice aveva capito. Un bel momento il giudice capisce che lui è l'assassino. Quello è un'intuizione formidabile, perché io penso che tutti gli assassini maniaci, soprattutto i serial killer, lasciano la firma, un'impronta, perché vogliono alla fin fine essere. Voglio dire, sono stato io, sto come nelle sceneggiate napoletane, sto certo. Qua, sto in mezzo pubblico, sì. Luce su primo attore quando lui sì. Ammazza la moglie durante il certo. Cinema. Effettivamente poi l'assassino gode quando uccide e quando racconta. Soprattutto io penso quando racconta. E senza di quello la cosa non è completa. Sì. Non è fatta. Bisogna essere molto raffinati per uccidere in silenzio, sì, per raccontare sì. Anonimamente. Beh, raffinati, insomma, una vanità strana, però... Però io penso che non avrò mai il coraggio di uccidere, però penso che cadrei anch'io nella trappola lentamente di dirla a qualcuno. Sì, poi tu sei talmente nemico di te stesso che lo faresti di sì. Corsa. Sì, ecco, senza... Io non mi fido dei preti, quelli che vai lì, confessi l'assassino, che dopo due ore ti arrestano. Hanno un segreto loro professionale o confessionale che si voglia. Comunque, tu scambi professionale con confessionale, sei veramente molto blasfemo. Sì, vabbè, ma loro sì. Vabbè, d'accordo. Ma perché dici nemico di te stesso? Questo totalmente. Anzi, cioè? Penso che tu abbia trovato un equilibrio. Io penso che tu goda delle tue miserie, delle tue paure, tu goda della parte brutta di te con una specie però di esorcismo continuo, perché ti vedo qui, comunque abbiamo tutte e due una ragguardevole età, ma tu più di me. Sì, è 78 e, anni. Perbacco. E sei arrivato. Ognuno uno se la cava come può con la vita. Il tuo esorcismo è stato molto... tu passi per un genio e sicuramente a questo punto comincio a credere che sia vero, ma non soltanto per le tue opere, proprio per come hai acchiappato la tua vita. Io mi ricordo la mia infinita ingenuità giovanile che ti volevo insegnare come si fa. Ma figurati, sì. Ma figurati. Beh, ti devo dire che io ho la tendenza forse... Guarda, le biografie più intensamente vissute sono quelle inventate. Io direi che il 90% della mia biografia è stata modificata, alterata, inventata. E cerco anche di raccontarmi, forse quasi è una vanità strana, cioè un vezzo, raccontarmi ignobile, peggiore di quello che sono, quasi per stupire la gente. Oppure mi invento delle malattie. Oggi sono entrato nell'Alzheimer. Questo perché tu l'hai considerato, fa molta impressione. Fare pietà, per esempio. E questa automania che non so se ce l'hai ancora, perché noi, pur abitando vicinissimi, ci vediamo molto poco, salvo al bar, così, ma... questa tua mania anche di tirare fuori la schifezza, non solo da te, ma pure dagli altri. Nel senso, non mi ricordo di un tuo gioco favorito che mi ha sempre innervosito, che era racconta la cosa di cui più ti vergogni. Ma io, se ce l'ho, la voglio proprio dimenticare e voglio andare oltre. E tu invece, cioè questa, ecco, parlami di questo. Ti dirò che più che altro era una parte di vanità, cioè quella di stupire un pochettino. Guarda che il personaggio tragico, incredibile, paradossale delle memorie del sottosuolo è uno che poi esalta, racconta, si crogiola nella sua vigliocchia, la racconta. Più ignobile è, più ha voglia di dimostrarsi ignobile. Però contemporaneamente convive con una certezza, io ce l'ho, di essere più intelligente delle mediocrità dell'uomo buono, l'uomo che dice la verità. La verità io non riesco mai a dirla. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.